Visionari, l'appuntamento con il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15, quest'oggi uno speciale che comincia alle 11. La scaletta la trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia sul pagina Facebook. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Tanti ospiti quest'oggi, cominciamo con un film che è uscito in sala ieri 30 aprile, ne parliamo con Antonio Morabito, il venditore di medicine. Questo è il titolo. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, raccontiamolo a chi ci ascolta questo film per sommi capi. Allora, il film parla di un informatore, racconta la storia di un informatore scientifico del farmaco trovandosi in una situazione di difficoltà in quanto la sua azienda sta licenziando e gli chiede di fare di più, spinge come può, in tutti i modi che può, i farmaci della sua azienda ai medici a cui va a far visita, quindi diciamo per far sì che i suoi farmaci, come si dice, entrino nella penna dei medici, ovvero sia che i medici lo prescrivano ai loro pazienti. Lui promette regali, insomma, di ogni tipo, favori, quindi possono variare dal gadget allo strumento professionalissimo, però possono andare anche a promesse ai vari convegni più o meno reali che avvengono in località più o meno esotiche, insomma. Antonio, il film comincia e finisce con immagini di repertorio di notiziari che danno conto di questo scandalo sanitario che coinvolgeva appunto ditte farmaceutiche e dottori, e i dottori vengono nel tuo film divisi tra regine e squali. Sì, comincio e finisce così perché quando io mi sono ritrovato a occuparmi di queste cose, quindi di farmaceutica, perché stavo cercando un farmaco, ho trovato veramente spaventose le cose che stavo scoprendo, quasi inverosimili. Sentivo come tutti, sentivo parlare di queste cose, però ecco, toccarle con mano mi ha fatto particolarmente effetto, e quindi proprio per attutire questa impressione che poi, insomma, con tutte le polemiche di questi giorni noto che si è avuta, cioè non può essere così, ma no, stai raccontando veramente le pochissime devianze di un sistema integerrimo, ho voluto sottolineare quanto il film partisse dalla realtà. I medici vengono bollati in questo modo perché purtroppo così accade, gli informatori, a seconda delle potenzialità prescrittive di un medico, ovvero sia di quanto un medico sia per loro più o meno importante, gli affibbiano nomignoli, insomma, piuttosto aggressivi. Ecco, ora i nomi che io ho dato sono alcuni di fantasia e altri presi da un'azienda e altri da un'altra, insomma, per cercare di non mettere di anche un po' nei guai gli informatori e i medici con cui ho parlato, perché poi ogni azienda ha i suoi nomignoli, insomma. Però sì, questa cosa avviene molto spesso, direi. Da dove nasce il tutto, l'esigenza di fare questo film, e poi ecco, qualcosa anche sulla lavorazione, dicevi, degli informatori, ecco, come ti sei documentato? Il tutto nasce da una da un'esperienza personale, purtroppo, perché mi sono ritrovato nella necessità di dover cercare un farmaco per questioni familiari che non era ancora stato messo in commercio in Italia, e quindi così mi sono occupato, insomma, di farmaceutica, che invece, insomma, un argomento che più o meno ignoravo, pur avendo avuto in famiglia medici, tra nonni, zii, eccetera. Quindi questa è stata un po' la genesi. Ho cominciato a frequentare degli prima dei dirigenti per cercare questo farmaco di varie multinazionali, e dopo piano piano, insomma, sono arrivato a ciò che mi interessava, ovvero sia a conoscere proprio personalmente diversi informatori scientifici del farmaco, perché ho notato che una delle cose secondo me meritava di essere raccontata era non tanto come un farmaco venisse eccetera. Quindi questa è stata un po' la genesi. Ho cominciato a quindi a frequentare degli prima dei dirigenti per cercare questo farmaco di varie multinazionali, e dopo piano piano sono arrivato a ciò che mi interessava, ovvero sia a conoscere proprio personalmente diversi informatori scientifici del farmaco, perché ho notato che una delle cose secondo me meritava di essere raccontata era non tanto come un farmaco venisse sintetizzato e prodotto, ma quanto come venisse immesso nel mercato. Viene immesso nel mercato equiparandolo a un qualsiasi bene commerciale, e questa cosa porta delle conseguenze veramente nefaste, credo. Ho una bella prova di attori, alcuni provenienti dal cinema, altri dal teatro. Sì, sono sul set c'era io ho avuto un cast veramente credo eccezionale, da Claudio Santamaria, che è un film ossessivo su di lui e quindi veramente regge il peso del film tutto sulle sue spalle, a Isabella Ferrari, che trovo che sia un'attrice eccezionale, io l'avevo vista a teatro in uno spettacolo di Binasco, ho veramente capito quanto fosse brava Isabella Ferrari. Anche poi c'è Roberto De Francesco, che viene da teatro, ci sono Giorgio Gobbi, Pierpaolo Lovino, Ignazio Oliva, anche la partecipazione, il film vede anche la partecipazione di non attori come Marco Travaglio, ad esempio, che se le cavate egregiamente, credo, nel film, e Roberto Silvestri nella parte di un giudice. Sì. Senti, da oggi nelle sale e tanti altri attori qui. Sì. Evita Ciri, un'amica, certo. Evita Ciri, bravissima. Volevo dirti, allora chiederti intanto, oggi da ieri nelle sale, la prima giornata, hai già dei riscontri? Allora, nelle sale da ieri non ho ancora visto i dati vari, nella cosa sono uscite le critiche, che mi hanno fatto molto piacere, sembra accolto molto bene dalla critica, e fino adesso le poche proiezioni a cui abbiamo assistito, ci sono state quelle persone che dopo uscivano, volevano raccontarci la loro esperienza, la loro esperienza con la sanità, con i medici, uscivano piuttosto scosse e convinte, ora vedremo, durante tutti questi ponti, vedremo come andrà. Per adesso devo dire che siamo molto contenti. In quante copie è uscito? È uscito in una cinquantina di copie. Che non è male, insomma. Bene. Distribuito dall'Istituto Lucio. Bene, Antonio, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Grazie a te, grazie a voi, salve. Ciao. Scendo in brezza, mamma mia, c'è sta manifestazione, o pur della polizia, o votta votto, curdone, fu pur della mezza via, lotto l'occupazione, da fai una mare e via all'università riunione. Se fa sere manifesto, si chia con le verze casse, fa mezzanotte, con l'amici va svariato, torne quattro mattina a casa tua, te va cuccata, fai 3-4 ore suona e te va nascita mamma, si na lode una mappina, te vuoi mettere a studiare, io mi faccio mezza tanto, tutte le ore a fatica. Era un'ossessione, ma con cosa sa da fate riga, basta, basta, basta, non posso più stanco, po' 7:40, mamma e papà, ricattato, ossessionata, mantenuta, parassita, ma sta storia da forni, voglio salaria garantita. Gira e vuota, sotto in coppa, ma... Paolo Pisanelli, ben ritrovato a Visionari in questa speciale primo maggio per celebrare questa giornata anche con la nostra sigla di contorno. Non è la solita, ma sono una serie di canzoni di lotta relative al primo maggio. Questi erano i 99 Posse. Paolo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti i Visionari. Beh, io vi consiglio di andare sul a vedere anche questo brano Give the Poison, che abbiamo postato il videoclip stanotte, perché è stato fatto proprio in questi ultimi giorni, ma è bellissimo, è il brano che in qualche modo così raccoglie dei fondi a 2 euro per il primo maggio. Ma è un brano girato proprio nel parco archeologico delle Mura Greche, dove si svolgerà tutto l'evento. Ecco, chiaramente Paolo, buon primo maggio anche a te. Prima della trasmissione abbiamo mandato in onda la registrazione dell'intervento di Michele Riondino, che ha presentato la giornata di oggi, e sappiamo che tu sei lì a Taranto. E intanto dici un po' com'è la situazione. Guarda, il cielo è grigio, ma siamo molto fiduciosi che si apra molto, quindi vediamo un arcobaleno così all'orizzonte, però insomma c'è molta attesa, molto fermento in città. E Taranto, io insomma l'ho raccontato in questi 2 anni facendo questo film Buongiorno Taranto e il videoblog anche, che buongiornotaranto.it, insomma ho puntato molto nel raccontare che sì, è una città piena di disastri, c'è il disastro ambientale, ci sono i lutti, ci stanno tante diciamo cose che non funzionano, che non vanno, c'è un territorio diciamo abbastanza disastrato, però al di là di questo c'è molta energia, c'è molta voglia di cambiare, ci sono dei ragazzi a partire dal Comitato dei Cittadini Liberi e Pensanti, ma anche ragazzi proprio giovani che hanno riconquistato le officine tarantine, che riconquistano le piazze. Lo stesso parco archeologico è un luogo che era abbandonato, è stato rimesso in funzione, no? Quindi cioè, è stato recuperato per la città. Io penso che questa è una città che vuole riprendere in mano il suo futuro, è una città che è molto provata, però che oggi si possa svolgere un evento di queste dimensioni è una cosa bellissima, cosa che ci fa sperare, non lo so, ci fa sperare che ci sia un cambiamento forte, deve avvenire, probabilmente il cambiamento io credo che deve essere anche buono nella testa di tutte le persone, no? Sì. Che bisogna mettersi insieme, bisogna lavorare insieme, bisogna riconquistare queste zone industriali abbandonate, queste periferie dove i bambini qua a Taranto non possono nemmeno giocare nei parchi, queste cose ormai le sappiamo, però è veramente agghiacciante quando vedi che davvero non si può giocare nei parchi, e non è un film di fantascienza, è la realtà. Ecco Paolo, il problema è anche che Taranto, voglio dire, è lo specchio dell'Italia, che non è un problema solo d'Italia, di Taranto lo sappiamo tutto, c'è Gela, c'è Mesto, c'è Piandino, variate Taranto che vivono per l'Italia. Senti Paolo, il tuo documentario Buongiorno Taranto è stato presentato proprio lì 2 giorni fa, il 29, sarà al Cinema Massimo di Lecce il 2 maggio, cioè domani. E che origini ha questo Buongiorno Taranto? Vabbè, intanto Buongiorno Taranto è proprio un partire con cercare di vedere il lato, anche la bellezza di questa città, l'energia. E quindi sì, sono arrivato la prima volta il 2 agosto del 2012, quando ci fu proprio la prima manifestazione di scontro tra operai, tra l'altro, e che mi sembrava una città in guerra, una città un po' aliena, con questi paesaggi lunari tutto intorno, con questi sbuffi di fumo, con la raffineria dove non puoi respirare, che ti senti male dopo 10 minuti. E però poi andando avanti ho pensato che un bellissimo modo per raccontare la città era raccontarla in modo musicale, facendo costruendo una radio web, cioè questo è Buongiorno Taranto Web Radio, è diciamo l'anima narrativa del film, e sono un gruppo di ragazzi che vanno in giro, che raccontano la città e che le persone che incontrano le coinvolgono e diventano conduttori radiofonici, gli stessi passanti a volte, no? E quindi c'è questo gioco di raccontare e di raccontarsi che mi sembra importante. Anche il sito buongiorno-taranto.it è un luogo di narrazioni su Taranto, ecco, questo ci abbiamo tenuto. Non è solo il laboratorio del film, quello che abbiamo fatto con il film, no, sì. Ci sono anche cose che riguardano la città, scritti, testi, poesie, quindi un modo per fotografie, un modo per comunque raccontarla da vari punti di vista e anche con diversi strumenti, insomma, no? Certo. Di narrazione. Certo. Paolo, allora abbiamo dato già questa data di Lecce di domani. Volevo sapere se è prevista una qualche forma di distribuzione, se c'è un calendario di proiezioni e anche un sito internet di riferimento per saperne di più. Sì, il sito è buongiornotaranto.it. Ok. Sicuramente saremo al Contest, al Cinema Aquila di Roma, quindi l'appuntamento a Roma. Per ora noi ci muoviamo soltanto sui festival, sì. Ci stiamo muovendo solo sui festival e sui eventi. Al Contest del nuovo Cinema Aquila sarà a fine maggio, primi di giugno, quindi la presentazione a Roma è fissata per quella data, e poi ci stanno chiedendo da molte città, anche dalla Basilicata, anche dalla Lombardia, quindi insomma lo stiamo organizzando. Io te lo anticipo, io con Cecilia Mangini per Cecilia andremo in Canada ora 10 giorni, quindi c'è questa sospensione perché c'è una rassegna bellissima che stiamo organizzando, l'Archivio di Cinema del Reale col Festival del Film de Femme di Créteil, e quindi faremo questa rassegna a Montréal e a Quebec City, e poi appena torno ci metteremo subito a portare in giro ovunque Buongiorno Taranto, perché insomma è un film che deve essere condiviso. Stiamo progettando dei cineconcerti e no, penso che sarà molto bello. Con i Revolving Bridge dovremmo fare, col gruppo di Michele dovremmo fare dei concerti, prima il film e poi il concerto, quindi stiamo pensando delle formule belle. Bene. Domani a Lecce 2019, ecco, Lecce, che sta, diciamo, sta lavorando come capitale della cultura, vuole stabilire un rapporto stretto con Taranto, perché il problema di Taranto, dell'ambiente, è un problema che riguarda tutti, e quindi sostiene il film e probabilmente insomma lo renderà accessibile anche per i non vedenti e i non udenti. Questa è una bellissima cosa, mi sembra, che alcuni non ci facciamo mai molto caso, no? Sì, sì. Il cinema è solo per chi ha gli occhi e può sentire, invece magari anche chi ha dei problemi, invece è bello che possa partecipare. Certo. Paolo, ci sarà modo allora sicuramente di riparlarne. Io nel frattempo ti abbraccio e a risentirci presto. Grazie, saluti a tutti i visionari e buon primo maggio. Buon primo maggio, ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, questo era Paolo Pisanelli, regista del documentario Buongiorno Taranto. Noi siamo poveri, siamo impezzenti, la spoglia breve di questa età, la schiera in numero dei sofferenti, per cui la vita. Yeah. Bene, siamo in collegamento con Alessandro Melazzini, regista del documentario Stelvio, Crocevia della Pace, presentato alla 62esima edizione del Trento Film Festival sabato 3 maggio. Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, ciao ciao, saluti da Trento. Allora, raccontaci un po' di questo Stelvio, Crocevia della Pace, cos'è? Guarda, è un film che non ha una storia, perché ha un protagonista che è il Passo dello Stelvio, un luogo che a me è caro perché io vengo dalla Valtellina, che si abita in Germania, e che 100 anni fa è stato teatro di scontri tra gli opposti fronti della Prima Guerra Mondiale. Adesso è un luogo pazzesco, come vabbè, lo era anche allora, ma un luogo pazzesco anche dal punto di vista turistico, perché si va a sciare d'estate, l'inverno è chiuso per troppa neve, ci passa il Giro d'Italia, c'è una strada che è un miracolo ingegneristico, ci sono tutta una serie di motivi, la storia, la memoria storica, il paesaggio, le persone che comunque lo frequentano, che mi hanno spinto a volerlo raccontare in occasione dei 100 anni della Prima Guerra Mondiale. Mm-hmm. E tutto è nato da un protagonista che è il portiere di un albergo al Passo, ma che è anche un alpino che passa il suo tempo libero a recuperare i vesti della Prima Guerra Mondiale, perché vicino alle piste da sci ci sono ancora filo spinato, qualche volta anche bombe, e mi sembrava una storia molto interessante da raccontare, e insieme a lui ho raccontato anche altre storie di persone molto diverse una dall'altra, che sono tutte legate a questo passo. Senti, quindi è stato una sorta di viaggio con una persona che ci conduce? Guarda, in realtà sono è corale come documentario, mm-hmm, sì. Perché sono circa 6-7 persone che faccio parlare, che racconto, che ascolto, e che ognuna mi racconta un suo pezzo di Stelvio. Non è un viaggio nel senso che tutti siamo comunque sempre allo Stelvio, certo è un viaggio nelle immagini, certo, nelle emozioni, e c'è un po' una dinamicità tra appunto la staticità dei monti e le storie alle volte anche commoventi di queste persone. Certo, per chi non lo conosce è comunque un viaggio, e spero anche che sia innanzitutto un viaggio così intellettuale, ma poi anche un viaggio fisico, per andare a visitarlo magari quest'estate. Mm-mm. Senti, che storie raccontano i tuoi interlocutori? C'è Mario Pasinetti, che lo mostro mentre è sulle nevi e racconta appunto dei recuperi che ha fatto. C'è Pompa, che è un meccanico di Bormio, un comune vicino, che ha inventato una serie di attrezzi che ha tutti sperimentati sul ghiacciaio dello Stelvio, e che le sue invenzioni sono nate da quando ha trovato una ragazza, insomma, in un ghiacciaio, non è riuscita a salvarla, e allora ha cominciato a pensare a inventare qualche cosa che aiutasse la gente in difficoltà. Poi c'è una persona, Paolo, che è un pochino più spirituale, che organizza una gara ciclistica sullo Stelvio che ci porta nelle trincee. C'è un pronipote dell'ultimo postino dello Stelvio, che andava fino agli anni 50, si faceva 20 chilometri, anzi 40 chilometri al giorno, 20 in salita e 20 in discesa, per portare le lettere. E poi ci sono anche due camei di due sportivi, uno è Gustav Töni, la parte dell'Alto Adige sul Tirolo, e l'altra è Deborah Compagnoni, vivono, diciamo, uno da una parte del passo, uno dall'altra, e raccontano come hanno iniziato su quelle nevi le loro carriere olimpioniche. Poi c'è anche un albergatore, perché mi sembrava giusto comunque che raccontare un aspetto che è quello più gastronomico, ludico, che contraddistingue il passo adesso, è un albergatore, insomma, che dà la sua interpretazione di questi luoghi, che per lui naturalmente sono legati alle varie cucine che si incontrano, che sono quella grigionese, quella valtellinese e quella altotesina. Che Stelvio ti porti nel cuore dopo questo documentario, questa avventura? Guarda, a me un motivo per fare documentari è imparare qualche cosa, e innanzitutto impararla io personalmente, e anche se questo passo io lo conosco perché ci sono andato a sciare tante volte da piccolo, comunque l'ho frequentato molto, sono rimasto io stesso sorpreso di quanto è vario, non solo perché ogni giorno cambia aspetto. Questo è stato un motivo produttivo anche difficile, perché poteva nevicare, poteva esserci il sole, era sempre molto difficile poter prevedere il tempo, ma poi anche le tante storie, tante persone e anche i tanti luoghi che ha le trincee. Io le ho scoperte in realtà facendo questo documentario, tutta una serie di altri laghi alpini nei paraggi. È un posto che sembra semplice e invece complesso, come un po' forse anche la montagna. Quindi devo dire che io stesso ho imparato molto, ho conosciuto molto, e devo dire che appunto dopo averci passato 30-35 giorni distesi in vari mesi, ho ancora voglia di andare a visitarlo, proprio perché ho capito che ho solo probabilmente toccato, raschiato la superficie di questi luoghi e delle storie di queste persone. È un luogo salvaguardato e valorizzato? Sì, è un luogo salvaguardato nel senso che c'è il parco, all'interno del Parco Nazionale dello, e questo da una parte, quindi comunque sì, c'è una certa attenzione. Devo dire anche che, come un po' capita spesso in Italia, ci sono anche una serie di divisioni, no? Ne parla anche una forestale, perché appunto essendo diviso su varie regioni, quantomeno il Trentino Alto Adige, la Valtellina, Lombardia, c'è un po' di, se vogliamo, un po' di concorrenza tra le varie parti del parco. Questo mi è sembrato di capire. Il passo in sé ha degli edifici più carini, altri meno, si potrebbe certamente anche migliorare, probabilmente lo si farà. E poi c'è sempre per esempio il grande problema del traffico, ci sono molte moto che ci passano, c'è un raduno motociclistico, ci sono degli old timer. Da una parte il passo vive anche economicamente di questi turisti, questo è indubbio, dall'altro certamente ci può essere anche, insomma, un inquinamento. È un po' difficile trovare una quadra su questo, però certo è un luogo molto bello e comunque ben tenuto. Non è una montagna violentata quella del passo, lo è stata in passato per le bombe, insomma, di scavi della prima guerra mondiale, ma poi si è vendicata perché il freddo ne ha ammazzato più persone, più soldati il freddo che gli opposti nemici. Alessandro, ho visto anche il calendario delle prossime proiezioni in alcuni festival e rassegne. Ci sarà una forma di distribuzione e poi c'è un sito internet per maggiori informazioni? Sì, il sito è alpinway.com/Stelvio, dove si possono vedere informazioni. Poi c'è anche la pagina Facebook, che è facebook.com/Stelvio Film. Il film è un film, diciamo, per il circuito dei festival, verrà mostrato a Milano il 15 e il 17 maggio, poi il 12 maggio il documentario di Monaco, poi al Sorrento International Film Festival, e speriamo arrivino altri festival. Ci saranno altre proiezioni, le sto un po' mettendo adesso in linea, qui a Bolzano ce ne saranno l'anno prossimo, e poi stiamo appunto prendendo degli accordi per eventuali distribuzioni spot, insomma, al cinema. E io comunque sono ben contento se ci sono anche delle associazioni che sono interessate a mostrarlo, e poi probabilmente l'anno prossimo faremo un DVD che distribuiremo. Adesso stiamo un attimo vedendo un po' come curare la mia distribuzione, e poi io sono anche produttore di questo documentario, sono in, diciamo, in trattativa con alcune televisioni, sia italiane che estere, per mostrarlo. Siccome appunto nessuno mi ha dato ancora un contratto firmato, mantengo la riserva, però visto che c'è un interesse, questo mi fa molto molto piacere. Naturalmente spero che gli ascoltatori possano vedere il sito, vedere il trailer, andare su Facebook e seguire un po' la storia, perché su Facebook mettiamo le foto del making of, una serie di informazioni, e poi spesso anche dagli ascoltatori stessi arrivano delle proposte di proiezione. Bene. Alessandro, io ti abbraccio, a risentirci presto. Grazie tantissimo, un saluto a tutti e buon primo maggio. Buon primo maggio, ciao. Ciao, ciao. Questo era Alessandro Melazzini, regista del documentario Stelvio, Crocevia della Pace, che sarà alla 62esima edizione del Trento Film Festival sabato 3 maggio. Poi come la grana. Siamo soci alla pari nella società umana. Banchiere vieni strada, datti una calmata. Dacci il bottino, tira fuori soldi e paga. Dacci il denaro, il primo di ogni mese. Mandiamo avanti il mondo, e abbiamo spese. Firma l'assegno, dacci un taglio e fa il bravo. Qui nessuno vuole essere il tuo schiavo. Noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita, tu vai all'incasso. E se ora il fratello butta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità. Perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tasca di chi è? Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Poi della terra la facciamo noi, piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi, il fondo di miniere lo scaviamo noi, l'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi, ogni formazione a salvo è di noi, ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi, la ricchezza della terra la facciamo noi ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso è in tasca di chi è? Grandi produttori dalle elementari, siamo sempre al lavoro e non bastano orari, con le nostre azioni voi incassate denari, coi nostri denari fate profitti stellari, quando lo scrittore dà potenza alla rima, è la voce del banchiere con l'opzione per prima. Ma quando una che sforza accesso ai sistemi. E un benvenuto alla professoressa Antonella Ottai, curatrice di Labor Story, il lavoro raccontato dal cinema che si svolgerà tra l'Università La Sapienza e il Cinema Trevi dal 5 al 9 maggio. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti e buon primo maggio. Buon primo maggio, chiaramente siamo anche in tema Labor Story, il lavoro raccontato dal cinema sembra un po' un calderone. Qual è l'accezione che però avete dato? L'accezione che abbiamo dato è, diciamo, quando il lavoro è stata una grande narrazione di cui il cinema si è occupato e cosa succede oggi e come mai poi questa narrazione a un certo punto si è anche interrotta. Quindi abbiamo collaborato con la Cineteca Nazionale per trovare nei loro nelle teche la parte documentaria, sì, riguardante il lavoro e la parte fiction, e quindi abbiamo ricostruito una rassegna che si svolge al Cinema Trevi. Però un'apertura da noi in Aula Levi il 5 maggio, una chiusura, l'abbiamo fatto con la Facoltà di Economia e Commercio questa manifestazione, e quindi poi chiude da loro e sul presente. Da noi invece comincia decisamente sul passato. Quindi ecco, sia parte documentaria che di finzione, quali sono i titoli che avete scelto? Ma dunque, intanto per cominciare abbiamo voluto dare un segno non solo cinematografico, ma è proprio che tipo di narrazione, come è stato raccontato il lavoro, e quindi cominciamo con un documentario molto raro che non credo sia mai stato visto, degli anni 50, L'asse del pedale, che racconta la catena di montaggio alla Renault, e a cui segue Diario di fabbrica, che è un monologo teatrale interpretato da Ermelinda Bonifacio e che si rifà al Diario di fabbrica di Simone Veil, quindi siamo nella Francia, sì, degli anni 30. Tra l'altro lo abbiamo ospitato il monologo con Ermelinda proprio qui in diretta in radio, a Radio Teatro. Bene, io penso che sia un pezzo abbastanza straordinario. Sì. E poi segue Portelli con il libro, rappresenta, diciamo, o riprende il discorso della ThyssenKrupp, che purtroppo in questi giorni è particolarmente attuale, è ritornato particolarmente attuale, però diciamo che racconta anche come poi la città di Terni è stata anche le acciaierie a suo tempo, poi c'è stata la ThyssenKrupp e adesso è un'altra cosa ancora, e quindi poi come dalla fabbrica e da quando la fabbrica era una cosa strettamente legata al territorio, tanto da poterne costruire o costituire la storia, e poi invece diventa un discorso non più disancorato da qualsiasi realtà locale, legato alla globalizzazione, con logiche che chiaramente sono tutte diverse e che appunto raccontano i tempi attuali. Ecco. Sì. proprio a proposito dei tempi attuali, Antonella, il cinema rispetto a come raccontava il lavoro oggi, nel suo modo di farlo, che differenze trovi e che continuità? Beh, intanto oggi racconta quello che non c'è e quello che è difficile da trovare. L'ultima giornata è uno sguardo proprio sul presente, cioè un documentario che è stato girato con gli studenti della Facoltà di Economia e Commercio e che racconta l'immaginazione del futuro e del loro futuro che i ragazzi hanno in questo momento. E c'è un documentario di Brunella Filì che è Emergency Exit, e che sono appunto le storie di una dei giovani laureati che comunque sono all'estero, ed è un'emigrazione diversa da quella del passato, perché non è un'emigrazione di mano d'opera come è stata in buona parte del Novecento, non è un'immigrazione di cervelli, è un'emigrazione proprio di una possibile classe dirigente che altra direzione non trova che quella di rivolgersi ai paesi in cui il lavoro c'è, e non sempre il lavoro risponde alla loro formazione, ma comunque risponde a un'economia che gli permette di mettere in moto un progetto e di ritornare a se stessi. E poi c'è Spaghetti e Storie, che è un altro film di De Caro, che racconta appunto l'immobilità a cui siamo condannati in questo momento, e le racconta in forma di commedia, come il titolo dice, di commedia all'italiana. Sì, tra l'altro è stato anche un piccolo caso cinematografico, visto. È stato, sì, perché appunto è un cinema un debutto di un cinema di De Caro, ma anche di un cinema indipendente, e ha avuto un certo successo. Sì. Antonella, per sapere maggiori dettagli sulla programmazione, c'è un sito cui far riferimento? Beh, c'è il sito del Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo, c'è il sito del Centro Teatro Ateneo, che comunque è il promotore insieme alla Facoltà di Economia e Commercio dell'iniziativa, e poi c'è il sito della Cineteca Nazionale. Benissimo. Allora, ricordiamolo, Labor Story, il lavoro raccontato dal cinema, Università La Sapienza e Cinema Trevi, dal 5 al 9 maggio. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, buona giornata ancora, arrivederci. Bene, Antonella Ottai, la professoressa Antonella Ottai, e questa è Visionari su Radio Onda Rossa, come ogni giovedì, anziché dalle 14 alle 15, come di consueto, in questo speciale primo maggio. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa ritmo lento, pausa pausa ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Un buon primo maggio a Gabriella Gallozzi, per parlare con lei del bando della terza edizione del premio Bucciacazione, che sarà le giornate degli autori alla 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia. Gabriella, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, buon primo maggio anche a voi. Allora, ce l'abbiamo fatta a fare anche la terza edizione con tutte le difficoltà del momento, soprattutto finanziarie, ma è inutile dirlo, questo è implicito in questi tempi. E quest'anno abbiamo scelto appunto tre libri dai quali saranno ispirati a questi book chuck, appunto, che ripetiamo anche questa volta. Non sono dei book trailer, cioè dei racconti, dei video narrativi sulla storia dei romanzi, ma sono dei piccoli video d'arte che noi immaginiamo possano diventare, attraverso tutte le possibili contaminazioni della rete, delle quarte di copertina per l'ebook. Quest'anno i libri che abbiamo scelto molto, sono al solito molto vari, abbracciano tanti temi diversi. Il primo è Il bambino con le braccia larghe di Carlo Ognetti, di S Edizioni, e è un racconto, diciamo, dell'Italia degli ultimi 60 anni attraverso la storia di una famiglia in cui c'è un ragazzo schizofrenico, per cui è anche l'occasione per raccontare tutta la storia della Basaglia, della rivoluzione Basaglia. Poi un libro di un giovane autore veneziano, Massimiliano Nuzzolo, Fratture, Edizioni Italic, che è una storia di, appunto, fratture sia fisiche che psicologiche, di due ragazzi che si incontrano all'indomani di un incidente. La ragazza è una filmmaker, quindi tutto il mondo del precariato per definizione di chi tenta di fare cinema, il ragazzo è un appassionato di informatica, per cui uno spaccato di mondo giovanile oggi. E poi il terzo libro è Gobbi come i Pirenei di Otello Marcacci, Neo Edizioni, che è una storia di un, potremmo dire, un ciclista piccolo piccolo, insomma, che non riesce mai a vincere questo Tour de France e che diventa un po' la metafora della sua vita, l'incapacità di arrivare al traguardo, che è anche un traguardo esistenziale, ma che poi per un caso di quelli che capitano nella vita in qualche modo riuscirà a riscattarsi. Quest'anno la novità è che abbiamo in giuria, oltre alla nostra straordinaria e prestigiosissima giuria composta da Ettore Scola, Citto Maselli, Ugo Gregoretti e Gianluca Scopinto, anche una presenza femminile che è Lorenza Indovina. Poi abbiamo un nuovo sponsor che è DM Communication, che è un service che metterà a disposizione del primo classificato una Canon per poter girare, appunto, il video successivo, se ne avrà l'occasione. Saremo alle giornate degli autori, ospiti, appunto, della sezione del festival, come tutti gli anni. Il giorno, la data è ancora da stabilire, ma sarà, insomma, alla fine. Quest'anno il festival è anticipato, finisce il 6 di settembre, quindi probabilmente saremo presenti intorno al 5. Dico due cose tecniche sul bando, certo. Nel senso, le iscrizioni sono aperte, aperte fino al 30 di giugno, cioè chiunque voglia partecipare può iscriversi semplicemente scrivendo a info@bookchuck.it, lasciare i propri dati, dire qual è il libro che sceglie, e poi la consegna dei video sarà entro il 20 di luglio. Mi pare di aver detto tutto. Sei stata esauriente, certo. Sì, l'occasione, appunto, per un filmmaker è quello di approdare, di avere la vetrina del Festival di Venezia, insomma. Sì, questo. L'altro anno avevamo anche un piccolo compenso in denaro, quest'anno non c'è, appunto, perché la situazione è quella che è, però, appunto, ci sarà la possibilità di avere gratuitamente questa telecamera, che per chi fa cinema, insomma, è sempre un'occasione. Benissimo. Gabriella, avremo modo di sentirci in occasione delle giornate degli autori. Nel frattempo un abbraccio e un in bocca al lupo. Senz'altro, i crepi, e grazie mille. Ciao. E ancora buon primo maggio. Buon primo maggio. Ciao Gabriella. Gabriella Gallozzi, per la terza edizione, per parlarci del bando della terza edizione del premio Bookchuck Azione alle giornate degli autori all'interno della 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia. Le otto ore sono troppo poche, provate voi a lavorare e troverete la differenza. Se non la smetti di arrestare i lavoratori, e noi faremo come annunce Piazza Loreto t'ammazzere, e noi faremo come annunce Piazza Loreto t'ammazzere. Bene, sulle note delle mondine di Novellara, se 8 ore vi sembrano poche, questo speciale primo maggio per visionari di quest'oggi, un buon primo maggio a Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, sul restauro del film Hiroshima Mon Amour uscito in sala lo scorso 28 aprile. Gianluca, ben ritrovato. Salve, salve. Allora, buon omaggio anche a te. Bene, grazie. Allora, Hiroshima Mon Amour ce lo avevi accennato durante l'ultimo collegamento che avevamo fatto, per chi ci ascolta raccontiamo anche l'importanza di questo film. Beh, sì, è un film che fa parte di questa serie del cinema ritrovato al cinema, di questi classici che tornano nelle sale italiane, e come è stato per il mese scorso Roma città aperta, anche Hiroshima Mon Amour è un film che in qualche modo cambia la storia del cinema. In fondo si può raccontare una storia del cinema prima di Hiroshima Mon Amour e dopo. È un film che anticipa le avanguardie cinematografiche, anticipa la Nouvelle Vague. Un grande critico francese ha detto vedere Hiroshima Mon Amour e come assistere nello stesso tempo al farsi di un dipinto di Velázquez, quindi un modo di dipingere classico, che poi diventa Picasso, quindi l'assoluta avanguardia. È un film unico, nel quale forse bisogna ricordare come è nato questo film. Sì. È stato il produttore Anatole Domain, che era un geniale produttore francese, molto conoscitore anche della letteratura europea, che chiese a un giovanissimo Alain René, reduce da un Oscar che aveva vinto con un suo cortometraggio Van Gogh, e da una serie di corti e mediometraggi straordinari, tra cui cito Notte e Nebbia, forse il film più straordinario e terribile che è stato fatto sulla Shoah, mi chiede di raccontare il dramma di Hiroshima. Siamo nel pieno della Guerra Fredda, siamo nella parte finale degli anni 50. René va a Hiroshima, visiona tutti i materiali che sono stati fatti su quel dramma, e decide di non fare il film. Ecco, dice al produttore: no, io non mi sento in grado, ecco, tutto quello che doveva essere detto è già stato raccontato da dei documentari, non posso aggiungere nulla. E a quel punto Domain ha un'intuizione, e cioè propone a René di lavorare con una grande scrittrice, cioè questa intuizione di spostare il centro del film dalla storia alla poesia, ed è Marguerite Duras che scrive il testo che poi René realizzerà, ed è un testo molto poetico che racconta di un amore, che racconta di una storia molto individuale, molto personale, interpretata dalla protagonista del film, Emmanuelle Rivat, e dell'incontro con un amore giapponese e della sua memoria della guerra. Ecco, questa soluzione di mescolare un piano molto personale a un piano, vuol dire, assolutamente universale, che ci riguarda tutti, che è il tema dell'orrore, della guerra e dell'orrore della bomba atomica, viene magistralmente sintetizzato da René, che è un maestro del montaggio ed è un grande filosofo, che si inventa un film di 90 minuti che ha una tenuta, un montaggio così innovativo, così sorprendente, un utilizzo delle immagini così nuovo, e anche una combinazione tra le immagini e la musica così, così riuscita, da realizzare un film matematico, ecco, un film per molti aspetti misterioso, ma anche uno dei film che riesce, anzi io credo il film che meglio di qualunque altro è riuscito a restituirci la potenza della, del ricordo e l'attualità del, del ricordo, ed è per questo che è un film che non invecchia, è un film eternamente giovane e sorprendente. Io l'ho rivisto qualche giorno fa con un grande direttore della fotografia, Luca Bigatti, che ha vinto l'Oscar con la grande bellezza di Sorrentino, è veramente un grande direttore della fotografia, sì, del cinema italiano, internazionale, contemporaneo, che è rimasto lui stesso stupito dalla modernità del film e dal suo punto di vista dalla modernità della fotografia, e mi raccontava come non riesce a capire come siano stati realizzati alcune inquadrature che sono ancora oggi così perfette, così sorprendenti, così nuove da arrivarci direttamente al cuore. È un film che ha influenzato molte generazioni di spettatori, è un film che ha fatto innamorare molti spettatori, molti musicisti, anche lontani nella sensibilità da un film del genere, si sono poi ispirati a questo titolo e a questo film. Tra l'altro, ecco, l'interprete Emmanuel Rivà, che veniva dal teatro e che è un'altra delle scoperte di René, qui rifulge in tutta la sua bellezza, avrà poi una grande carriera, e ricordo che l'anno scorso è stata candidata all'Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione straordinaria in Amour di Haneke, e questo, ecco, credo che sia ancora l'ennesima dimostrazione della vitalità di questo film. Quando lo vedrete, ecco, è impossibile non vedere Wong Kar-wai, non vedere molte delle immagini del cinema contemporaneo. Sì, sì, sì. Ed è un film che all'epoca fece un enorme scalpore, fu presentato a Cannes, e le critiche dell'epoca furono in qualche modo sconvolte proprio da questa concezione algebrica del film, da questa perfezione matematica del film. Gianluca, spendiamo anche due parole sull'opera di restauro della Cineteca? Sì, è stata un'operazione complessa, nel senso che avevamo tutti i materiali migliori a disposizione, quindi apparentemente era tutto semplice, ma dovevamo lavorare con un maestro della storia. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con un maestro della storia del cinema, René, che era molto dubbioso sull'utilizzo del digitale. Era molto preoccupato, ecco, che il digitale scalfisse la perfezione di quest'opera, e per questo ci siamo anche avvalsi della collaborazione di un grande direttore della fotografia, Renato Berta, ha lavorato con molti grandi del cinema contemporaneo, ha lavorato a lungo anche con René, e che con lui si è molto confrontato per trovare per riuscire a mantenere tutta la bellezza e la perfezione di questo film. Credo che chi vedrà la proiezione farà fatica a capire che è una proiezione digitale e non in pellicola, perché credo che sia uno degli esempi più mirabili di come il digitale possa essere vinto e oggi possa consentire veramente di avvicinarsi molto, molto, molto alla qualità fotografica. E poi abbiamo fatto, credo, un ottimo lavoro sul suono e le voci degli interpreti e la musica di Fusco, che è uno dei punti di assoluto genio del film, questa combinazione tra le immagini giapponesi e la musica di Fusco, che era stato, era in quel momento dava le musiche ad Antonioni, e quindi danno un'atmosfera ancora ulteriore a questo film così sorprendente. Ecco, credo che con un restauro anche del suono si possa ascoltare in tutta la loro profondità. Gianluca, da lunedì scorso nelle sale, volevo chiederti in quante copie è uscito, come sta andando, e poi un sito internet per avere informazioni in proposito. Guarda, abbiamo fatto i primi due giorni, lunedì e martedì, è partito benissimo, un po' dappertutto in Italia. È un film che non si vedeva da molto tempo, è un film, per chi l'ha visto, è un film che in qualche modo segna la vita degli spettatori, quindi e poi naturalmente noi ci auguriamo che non venga visto solo da chi lo ha già visto questo film, ma anche da chi questo film non l'ha mai visto e che scopra uno dei film più sorprendenti del Novecento. Anzi, se c'è un film che in qualche modo rappresenta la capacità del Novecento di cambiare tutto quello che sembrava assodato, quindi anche il racconto, il romanzo, il modo di raccontare attraverso le immagini, forse questo film che più di tutti rappresenta il Novecento è proprio Hiroshima Mon Amour. E quindi speriamo che anche ci sia un pubblico di ragazzi, di giovani che scopra la gioia e la sorpresa di vedere questi 90 minuti di Alain René al cinema. Gianluca, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, evviva! Ancora buon primo maggio, ciao! Evviva. Bene, Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che ci ha parlato del restauro del film Hiroshima Mon Amour, uscito nuovamente in sala lunedì scorso 28 aprile. Bene, di nuovo il sottofondo di questo speciale Visionari primo maggio era il coro dei canti di lotta di Giovanna Marini. Questa è Visionari in edizione speciale, come ogni giovedì, ma anziché dalle 14 alle 15, oggi in onda alle 11. Per i riferimenti, la scaletta di quest'oggi con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di ieri mercoledì 30 aprile ma fino al 6, e poi i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, il link per riascoltare la puntata precedente ma anche l'archivio del 2014 e del 2013, potete trovare tutto sul sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari. C'è anche la pagina Facebook di Visionari e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Son senza patria i soldi o dei padroni, son soldi viaggiatori come piccioni, per far viaggi d'affari o di piacere, i capitali varcano le frontiere, son mille più miliardi che anno per anno traversano le frontiere e se ne vanno, e noi lavoratori senza lavoro dobbiamo per mangiare viaggiare con loro. I soldi che gli agrari ci han tolto via fan tappa su in Piemonte e in Lombardia, e qui si riproducono per contanti, poi se ne vanno all'estero tutti quanti. I soldi dei padroni van dritti dritti dovunque possa entrare maggior profitti, e noi passo per passo, metro per metro, dobbiamo per mangiare tenergli dietro. Ed è con noi Alessandro Leone, responsabile di redazione della rivista Cine Qua Non, che è ora sul web. Pronto, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno ai vostri radioascoltatori. Buon primo maggio, Alessandro. Buon primo maggio anche a voi. Allora, raccontaci un po' di questa storica rivista Cine Qua Non. Sì, Cine Qua Non nasce 20 anni fa, più o meno, 19 anni fa, nel 95, in formato cartaceo, e nasceva come supporto a uno dei rari cineclub ormai presenti in Lombardia, in particolare a Varese, Film Studio 90. Nasce come bimestrale, va avanti per una quindicina d'anni, negli ultimi anni un po' a singhiozzo per ovviamente sopravvenute spese legate proprio alla come dire, produzione e promozione della rivista, che è sempre stata distribuita gratuitamente. Dopodiché facciamo il salto un paio d'anni fa e arriviamo sul web nel 2012 proprio con questa versione cinequanon.it totalmente rinnovata, pensando anche a un giornale, un quotidiano che quindi doveva per forza di cose cambiare pelle rispetto invece alla cadenza bimestrale o addirittura trimestrale. Senti, rispetto al suo percorso storico, quali sono le sue caratteristiche e come si è trasformata nel tempo? Beh, dunque, innanzitutto diciamo che l'apparato redazionale si è rinnovato in parte, i collaboratori storici sono rimasti anche in questa nuova versione. Parlo di contributi che occasionalmente arrivano da giornalisti e critici cinematografici come Nicola Falcinella, che ha scritto per il... E anche un redattore di questa trasmissione, Nicola. esatto, quindi Mauro Gervasini, che caporedattore di Film TV, sì. Per cui insomma collaboratori che sono cresciuti anche intorno all'ambiente baresino, quindi al Film Studio e appunto a Cine Qua Non. Dopodiché una serie di collaboratori più giovani che si sono accostati dapprima come lettori e poi appunto adesso come collaboratori di una rivista che si è svecchiata, potremmo dire. Il che significa fare riunioni redazionali una volta al mese, capire come rimanere sempre sul pezzo e quindi attuali. e ti dico, un apparato che prevede, per cui ragazzi che riescono a seguire le anteprime, ce ne sono 4-5 a settimana solo a Milano, persone che riescono poi a seguire i festival più importanti, quindi da Roma il Festival di Venezia, addirittura Cannes, Locarno, adesso Udine, in corso proprio in questo momento, per cui abbiamo dei giornalieri costantemente anche da Udine. Dopodiché altre rubriche che sono ad esempio Oltre Confine, ad esempio i film che arrivano teoricamente in Italia ma che poi non vengono distribuiti, i percorsi tematici di approfondimento, abbiamo un settore dedicato alla videoarte, quindi devo dire un grosso sforzo che unisce alla passione anche tanta tanta professionalità. I nostri collaboratori vengono costantemente formati attraverso degli incontri con esperti di settore, con i nostri stessi redattori storici, per cui devo dire un lavoro di squadra abbastanza complesso, ma alla fine è gratificante e divertente anche, perché poi se non ci si diverte ma viene un po' meno anche lo spirito del lavoro. Sì, sì. Senti Alessandro, ecco, proprio in relazione al taglio redazionale, quali sono un po' i tratti contraddistintivi della rivista? Allora, guarda, abbiamo tenuto, sempre come linea guida un po' quella di rimanere una rivista legata al mondo dei cineclub. In particolare ovviamente ci studio, quindi tutto ciò che succede in provincia, ma con uno sguardo aperto all'universo cinema, quindi sì, nazionale, quando possibile internazionale, per cui unire questa doppia anima non è stato facile, non è facile tuttora, ma quello che ci piacerebbe è riuscire sempre a raccontare il cinema in maniera vivace, giovanile, non sottovalutando ad esempio tutte le interconnessioni con i social network, quindi abbiamo sì, una pagina Facebook su cui è possibile commentare gli articoli e dialogare con i nostri collaboratori, e questo credo sia essenziale soprattutto oggi che la comunicazione sta cambiando. In questo senso cerchiamo costantemente di tenere gli occhi aperti a quello che succede appunto nell'universo cinema, ma anche a come cambia lo spettatore cinematografico. Questo credo che sia un po' un tratto distintivo a quello che, sì, che facciamo costantemente, capire chi ci guarda, chi è lo spettatore, non solo lo spettatore del cinema ma anche il lettore ad esempio di riviste specializzate. Sì. Alessandro, in chiusura ci dai riferimenti internet per seguirvi? Sì, www.cinequanon.it, abbiamo aggiornamenti quotidiani e dal nostro home page è possibile arrivare direttamente sulla pagina Facebook e Twitter della nostra rivista. Alessandro, ancora buon primo maggio, a risentirci presto. Buon primo maggio anche a voi e grazie, buon primo maggio a tutti i vostri radioascoltatori. Ciao ciao. A presto. Allora, siamo dopo Alessandro Leone che ci ha parlato della rivista Cine Qua Non, che è sul web, responsabile di redazione. Siamo in collegamento con Alberto Bouglot, regista che abbiamo sentito un paio di settimane fa, per parlarci di un nuovo progetto documentario, ossia L'ultimo giorno. Alberto, buon primo maggio e ben grazie, ritrovato. Grazie, buon primo maggio anche a voi. Dici un po' di quest'ultimo giorno. Dunque, L'ultimo giorno è un progetto insieme nuovo e antico, un progetto che nasce da lontano, da un'esperienza di laboratori audiovisivi in un contesto molto particolare, che è quello delle scuole elementari e medie delle più disagiate delle isole Eolie. Un progetto che porto avanti dal 2004, che si è ripetuto anche quest'anno, e che nel lontano 2008, nel marzo del 2008, mi portò a conoscere l'incredibile scuola dell'isola di Alicudi, la più piccola e occidentale dell'arcipelago. È una scuola, diciamo, credo che sia la più piccola d'Italia, una scuola che, dove oggi rimangono 3 bambini, quando l'ho conosciuta io ce n'erano 5, quindi non molti di più. E non soltanto i bambini e la scuola, ma anche una maestra molto particolare, la maestra Teresa Perre, che è una signora di Milano che ha deciso di dedicare la sua vita e tutta la sua capacità didattica e creativa alla scuola dell'isola, ne ha fatta la propria missione. In quel momento tutto finì con i laboratori dei ragazzi, ma rimase la voglia di tornare per raccontare più a fondo questa esperienza di storia di scuola di frontiera, che nonostante tutto resiste e rimane aggrappata a questo scoglio, e non soltanto come simbolo di un'istituzione che in qualche modo c'è, ma anche come simbolo di un modo di pensare di fare scuola quotidianamente, perché appunto nel metodo, nell'approccio di Teresa ci sono le radici di tutta l'innovazione pedagogica, della storia dell'innovazione pedagogica, sì, in Italia, la scuola di Alicudi in qualche modo è assomiglia alla scuola di Barbiana di Don Milani nelle attività di che Teresa negli anni ha proposto per tenere viva questa scuola. Si sente l'eco della storia, delle storie di Mario Lodi, che è recentemente scomparso, o del maestro di Petralata, poi raccontato successivamente da Vittorio De Seta, no? In Diario di un Maestro. Insomma, in questa piccola isola, in questa piccola storia di filiforme, praticamente una storia davvero minimalista, fatta di poche cose, si trova lo specchio di una scuola italiana che oggi è a rischio di estinzione, di una cultura che in qualche modo ha fatto scuola e ha segnato un'epoca. Ecco, per questo ho deciso di tornare. E anche grazie, è stato possibile, anche grazie al grande legame di amicizia che era nato attraverso il laboratorio di visivi con i bambini. E quindi a partire dal 2011 ho cominciato questo lungo lavoro di osservazione, semplicemente collocando una telecamera dietro la cattedra e stando a guardare questo l'incredibile teatro quotidiano di questa scuola di 3 bambini. 3 bambini che non sono assolutamente semplici, perché dietro la cartolina della dell'Alicudi estiva, che forse conosciamo, comunque sia della bellezza radiosa dell'isola, si nasconde un contesto sociale molto opprimente, molto chiuso, in qualche modo arcaico, che riesce a essere anche particolarmente violento, e questa violenza di questa frustrazione costante del non saper, del non riuscire a uscire dalla prigione dell'isola. Ecco, i bambini si nutrono dai primissimi anni e questa violenza facilmente si scatena in modo assolutamente incontrollabile in aula, e questa scuola di 3 bambini molto spesso è una scuola incontrollabile, una scuola ingestibile, una scuola praticamente impossibile. E proprio per questo la missione di Teresa di Teresa Perre è stata negli anni una missione particolare che vale la pena raccontare. In qualche modo questo è un po' il profilo del progetto, che risponde in qualche modo e prosegue il cammino del racconto della scuola di frontiera, che ho cominciato con il ritrattista di cui parlavamo qualche tempo fa, sì, qui su Radio Onda Rossa, e proprio per un racconto che peraltro ha un suo riflesso importante anche nel progetto di un altro progetto di Zalab, che è la prima scuola, no? che ultimamente ha cercato di appoggiare nuove iniziative a sostegno di una scuola creativa e democratica in Italia, e che rappresenterà la rete, per il momento la rete principale di appoggio e diffusione di questo documentario. Mm-hmm. Documentario che ancora una volta nasce e si sviluppa attraverso una campagna di crowdfunding, ed è la notizia di oggi, perché questa campagna l'abbiamo voluta lanciare proprio oggi, 1 maggio, e siamo in questo momento in attesa dell'ultimo semaforo verde da parte della piattaforma di crowdfunding di Verkami, dove sarà pubblicata. Quindi nel giro di pochi minuti, credo nel giro probabilmente di questa prossima ora, il progetto sarà disponibile appunto sulla piattaforma verkami.com, durante 40 giorni giorni per appunto per raccogliere sostegno e finanziamento, perché appunto a partire fra il 2011 e il marzo di quest'anno abbiamo realizzato tutte le riprese, e in questo momento appunto lanciamo la campagna per poter sostenere i costi di montaggio, post-produzione e comunicazione del documentario. Benissimo, allora la piattaforma è quella di zalab.org. Alberto, io... Sì. La campagna sarà invece su verkami.com, la campagna di crowdfunding. E a questo punto sei stato molto esauriente, sono stato ad ascoltarti con molta attenzione. Io ti abbraccio, un in bocca al lupo, ricordiamo questo progetto Doc l'ultimo giorno, e a risentirci presto. Bene, grazie mille e buon primo maggio a tutti voi. Auguri, ciao. Grazie. Bene, questo era Alberto Buglò per il progetto l'ultimo giorno. Dovremmo avere un ultimo collegamento. Sulle note dell'Internazionale, un buon primo maggio, Sabrina Baracetti, per parlare con te, visto che la settimana scorsa è saltato il collegamento, ma stavolta ce l'abbiamo fatta, della 16ª edizione di Far East Film Festival a Udine, cominciato il 25 aprile, andrà avanti fino al 3 maggio, di cui sei direttrice. Ben ritrovata intanto, Sabrina. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori da Udine. Sì, da Udine, certo. Allora, e abbiamo appena finito questo incontro che metteva insieme infatti un regista di Hong Kong, che è Derek Kwok, assieme ad un regista malese che ha presentato qui un film molto divertente su un possibile matrimonio tra una donna malese e un ragazzo inglese, quindi matrimonio misto. Poi abbiamo la regista esordiente che arriva dalla Corea del Sud, la Nodok, si chiama così, è una ragazza che ha costruito un film incentrandolo sulle relazioni interpersonali, sulle del amore che nascono e si interrompono, e poi abbiamo finalmente dato benvenuto al regista thailandese che si fa chiamare Ban Chong e che firma questa commedia surreale che si basa su un'antica leggenda thailandese riletta in chiave postmoderna. Per cui insomma oggi proprio sono al telefono contento di aver visto proprio aver seguito un incontro che definitivamente si può definire farista, proprio perché c'erano quattro nazioni coinvolte, quattro industrie cinematografiche diverse coinvolte, e questo è un po' quello che stiamo facendo. Sì. Senti Sabrina, quante le opere che presentate in questa edizione? sono allora 60 i film che mostriamo in 9 giorni, all'interno dei quali ci sono anche dei documentari per la prima volta nella storia del festival, e ci sono anche dei film classici nella loro versione restaurata in 2K che abbiamo potuto inserire nella selezione di quest'anno, e gli altri sono in competizione, per cui il 3 maggio annunceremo quello che sarà il film vincitore dell'Audience Award, appunto perché Far East Film Festival è un festival incentrato soprattutto sulla possibilità che dà al pubblico di essere parte attiva del festival stesso, e quindi votando il proprio film preferito, quindi avremo la possibilità di annunciare dopo la proiezione di Terme Rome 2, il blockbuster giapponese, le Terme di Roma, appunto annunceremo i vincitori dell'edizione. Ci sono alcuni elementi che contraddistinguono più di altri i lavori di questa edizione? Beh, l'abbiamo detto un po' all'inizio, è stata un'edizione sicuramente nella prima parte dedicata interamente ad Hong Kong. Hong Kong sta vivendo un periodo molto particolare nella sua storia dell'industria cinematografica, perché i registi si sentono pressati un po' a questo che è uscito durante i primi giorni del festival, si sentono ovviamente pressati da quella che è l'imponenza e la pressione che arriva proprio dalla Cina continentale, dalla possibilità quindi di costruire delle opere che debbano affrontare il mercato cinese, quindi vivono questo conflitto: o scegliere la via del mercato cinese, quindi con budget molto più grandi, ma anche con molti limiti per quanto riguarda la dimensione artistica e contenutistica dei loro film, oppure scegliere invece di creare e produrre dei film soltanto per il pubblico locale, quindi per il pubblico hongkongese, e avere a disposizione la totale libertà. Quindi questo è quello che è emerso in questi giorni. Alcuni registi hongkongesi, ovviamente per sopravvivere, scendono a patti con quelle che sono le esigenze del mercato cinese, e quindi abbiamo mostrato anche quelli, i prodotti più commerciali che sono intesi proprio per di raggiungere le masse in Cina. Però siamo riusciti anche a mostrare prodotti come quello The Midnight After di Free Chan, che ha presentato qui dopo aver mostrato il film al Festival di Berlino, invece dei prodotti che non hanno nessun tipo di compromesso con questa dimensione. Senti Sabrina, tempo fa un regista sottolineava il fatto, l'importanza di alcuni festival come il Biografilm e appunto il Far East, che si contraddistinguono anche per le scelte distributive che hanno intrapreso. Certo, sì, lo possiamo dire, da 4 anni esiste la Tucker Film, che è una sorta di emanazione non solo del Far East Film Festival di Udine, perché la Tucker Film ha iniziato a lavorare portando alcuni dei titoli asiatici nelle sale italiane, grazie appunto al fatto che fossero prima mostrati all'interno del contesto festivaliero e ottenessero quindi un consenso di pubblico, e dopodiché scelti per poter avere un circuito distributivo in Italia, un mercato distributivo in Italia. Questo è quello che siamo riusciti a fare con un film come Departures, film giapponese che abbiamo mostrato 4 anni fa e che vinse appunto il primo premio di gradimento del pubblico al Far East Film Festival, e che poi portammo nelle sale con una uscita potrei dire importante, soprattutto per una casa di distribuzione che sta lontano da Roma e che ha a disposizione insomma un piccolo patrimonio rispetto a quelle che sono invece le grandi compagnie di distribuzione in Italia. Quindi noi siamo riusciti con la Tucker Film a portare a dare più vita ad alcuni dei film del Film Festival, e allo stesso tempo creare anche uno spazio attraverso l'appoggio e la collaborazione fondamentale di ad esempio Rai 4, il canale inventato appunto per contenere questo prodotto che potremmo definire più di genere, più action, più thriller, e quindi grazie a Tucker Film siamo riusciti appunto, come dicevo, ad avere maggiore visibilità. Benissimo, allora in chiusura ricordiamo i riferimenti internet per chi volesse sapere qualcosa in più sul programma? Assolutamente, allora ci si può collegare alla, alla nostra pagina Facebook, che corrisponde appunto a Udine Fare Film Festival, e anche al nostro sito internet farifilm.com. Un'altra cosa, siamo anche presenti su tutti i socials, per cui anche chi ha Instagram può seguire quasi in diretta quello che succede qui al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, e naturalmente anche con Facebook e Twitter. Benissimo. Sabrina, un abbraccio, di nuovo buon primo maggio, a risentirci prossimamente. Grazie mille, grazie a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene, questa era Sabrina Baracetti per quanto riguarda la 16ª edizione del Far East Film Festival a Udine dal 25 aprile al 3 maggio, di cui è direttrice. Con lei chiudiamo gli appuntamenti e i collegamenti per la puntata di quest'oggi. Avremmo dovuto sentire Alessandro Lunardelli, regista del film Il mondo fino in fondo, che è uscito ieri nelle sale, ma purtroppo non siamo riusciti a contattarlo. L'appuntamento è per la prossima puntata, la prossima settimana, giovedì, sempre dalle 14 alle 15. Per sapere tutto basta consultare il sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, per trovare gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di ieri mercoledì 30 aprile, ma anche quelli fino al 6 maggio prossimo, i suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2014 e del 2013. C'è anche la nostra pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Di nuovo buon primo maggio, festa del lavoro o festa del non lavoro, dipende da come la prendiamo. Buon proseguimento.